colpo mi assale la consapevolezza. Allora lascerai andare il volante, che la macchina faccia ciò che deve fare. E dolcemente mi lascia andare. All'impotenza umana! Come on, man!